vengo anch'io. Vengo anch'io, cari amici ascoltatori. D'Alema non lo ha detto ancora perché Veltroni si è deciso a non candidarsi. D'Alema, dillo anche tu, vengo anch'io. Niente più posto in Parlamento neanche per D'Alema. Dillo, dillo. Vengo anch'io. Vengo anch'io, non bastavano i soldi che anche lo Stato deve alle imprese. No, c'è qualcuno che ha fatto il conto, il giornale, di quello che le regioni devono alle imprese. Sono 40 miliardi, naturalmente le più insolventi Lazio e Campania. 40 miliardi. Intanto però per loro ce n'è sempre.